Cellulite e celluloide, la più importante rubrica di cinema, giochi, videogiochi del mondo. Buonasera Gabriele Nuora, come stai, come va? Tutto bene, tutto bene. Hai passato una buona settimana? Ma assolutamente sì. Eri molto presente sui social network questa settimana, ieri, oggi. Beh, ieri perché... Gli davi giù come un santo vecchio. Ieri tra le 11 e mezzogiorno e mezzo ero attivissimo perché c'è stata la presentazione dei titoli del prossimo Festival di Cannes. Che sono... 60. Allora, cosa si è scoperto ieri? Primo, che pare che non ci sarà Tarantino. Stavo leggendo. Pare che non l'ha finito in tempo il film. Adesso, cosa succede ora? Succede che intanto quando c'è Cannes? 13-25 maggio. E il film di Tarantino, nei cinema normali, esce a luglio. Allora, il film non è stato annunciato, quindi non è tra... Però, come in tutti i festival del mondo, si annuncia sempre il 95% del programma. Ci si tiene sempre degli slot liberi per chi finisce all'ultimo secondo. Quindi, ufficialmente la cosa è questa: Tarantino ci vuole andare, la produzione è d'accordo ad andarci, il festival non vede l'ora, si tiene la porta aperta fino all'ultimo secondo. Cioè, lo slot che loro hanno lasciato libero è quello dell'ultimo giorno. Che quindi, è quello più importante? No, però hai tempo per finirlo fino all'ultimo giorno. Vabbè, ma che gli devi correre appresso? Poi se viene male? No, lui deciderà quando. Lui chiaramente ha più interesse a farlo bene che andare a casa. Anche se ci vuole andare, però l'interesse primario è farlo bene. Perché poi se ti sbrighi, vai lì ci sono tutti i critici del mondo, vieni stroncato. Cioè, no, non è il caso. Vai a Hollywood direttamente. Ma sì, meglio capire se ce la fa. Se ce la fa, punto e basta. Il punto è che se avete, insomma, un minimo avete guardato che cos'è questo nuovo film di Quentin Tarantino, lui, se andasse a Cannes, porterebbe esattamente il 50% delle star del festival. Il che vuol dire che senza Tarantino il festival è proprio povero di star. Ah sì? Sì. Vabbè, se ci vai tu... Dai una mano. Sì, ma io non posso fare tutto tutti i giorni, no? È chiaro questo. Ormai ho una famiglia. Quando dico star, intendo chiaramente star americane, perché poi ci sarà pieno di star francesi, star tedesche, star cinesi. Ma è chiaro, esattamente. Un sacco di star italiane. No, in realtà uno solo. Al momento solamente un film italiano. Poi vediamo i prossimi annunci. Chi è? Il Traditore. Film su Tommaso Buscetta, morto, diretto da Bellocchio, in cui Buscetta lo fa Pierfrancesco Favino. Oh cavolo. Concorso, no, fuori concorso. Concorso. Che Favino fa pure Craxi, o sbaglio? No, è l'altro che fa... Chi è? No, che no, fa pure Craxi, è vero. Fa pure Craxi, assolutamente. In Mamet di Amelio, che secondo me è In Profumo di Venezia. Secondo me sì. Quindi Tarantino non si sa se ci vanno. E chi porterebbe Tarantino? Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. È già basta. Poi ci sta Margot Robbie. Ci sta Dio santo, ce ne stavano un milione. De Niro, Al Pacino. No, quelli stanno con Scorsese, che non c'è, che ufficialmente neanche Scorsese c'è. Il direttore del festival ha detto Scorsese lo finisce a fine anno, quindi proprio ciaone. Ma quello che va su Netflix? Esatto. Ciaone proprio. E che è il film su... The Irishman, su Jimmy Hoffa. Sempre mafia, America, italo-americani, il classico. E il motivo per cui ci stanno mettendo tanto, perché stanno facendo quella cosa allucinante che fa il cinema negli ultimi anni, cioè ringiovaniscono al digitale gli attori. Al Pacino e Robert De Niro faranno anche se stessi giovani ringiovaniti al digitale. E il processo di ringiovanimento digitale gli prende un sacco di tempo, chiaramente. Ma come fanno, scusa? Vabbè, al computer lo so. No, è certo, no, funziona così. Funziona così. Levano le rughe, che fanno? C'hanno l'effetto bellezza? No, avete l'effetto dell'iPhone. Avete presente come fanno i personaggi digitali? Insomma, il Gollum del Signore degli Anelli o l'ultimo King Kong? Prendono gli attori, gli mettono quelle tutine piene di luci e in faccia tutti i puntini, pieni di puntini in faccia. Quei puntini sono dei sensori che rilevano il movimento dei muscoli della faccia. Una volta che il computer ha registrato tutti i movimenti dei muscoli della faccia, quindi le espressioni, cioè, ci vuole un gran bel computer. Beh sì, insomma, te lo devi comprare apposta, diciamo, nuovo. Almeno 3.000 euro li spendi, te lo dico, dici, te lo dico, E, una volta che il computer li ha rilevati tutti, creano al digitale la faccia, cioè proprio la disegnano da zero, basandosi su le foto da giovane, chiaramente. A quel punto il punto è: noi abbiamo creato il te finto, fermo chiaramente, immobile, come fosse una foto in 3D, chiaramente tridimensionale, che deve essere perfetto, e gli diamo i movimenti che abbiamo registrato e quindi sono i tuoi. Se avete mai giocato ai videogiochi di calcio, sapete che chiaramente non è che sembrano davvero loro, non sono proprio realistici, muovono come loro. Però si muovono come i giocatori. Cioè tu quando li vedi da lontano, hanno proprio, corrono come corrono i giocatori, hanno quelle movenze esatte. Il concetto è un po' lo stesso, ha un miliardo di livelli di sofisticazione in più, però il concetto è quello. Fino ad ora l'abbiamo visto in il Star Wars, lo spin-off Rogue One, lo spin-off di Guerre Stellari, in cui c'è la principessa Leia giovane, perfetta. C'è anche un Peter Cushing, che è un altro attore fatto giovane, per sembrano veri. Poi l'abbiamo visto in un altro che adesso non mi ricordo. C'è in Ant-Man, c'è Michael Douglas ringiovanito ed era fatto molto bene. Ne abbiamo visto anche uno recentemente che non mi viene in mente, però ne hai parlato proprio una o due settimane fa. È una cosa che va sempre di più. E adesso, se lo fa Martin Scorsese, che è una specie di maniaco della precisione, se viene perfetto con Pacino e De Niro, che noi ci ricordiamo benissimo come erano da giovani, ricordo come esatto, è proprio interessante. Lì si apre un mondo. Ma anche perché tutti ti dicono, chiunque lavori a Hollywood ti dice, cioè, questa è la tecnologia ai massimi livelli, no? Io ti prendo vecchio e ti faccio giovane. Ma ai minimi livelli, cioè, io ti prendo come sei, ma ti levo un po' di... ti faccio poco più giovane, pochino. È continuamente utilizzata. Qualunque attrice, qualunque cosa è, si fa ritoccare nei film e tu non te ne accorgi. Sempre con questa tecnologia? No, con tecnologie un pochino meno raffinate. Non è che recitano sempre con i puntini, sennò sarebbe un casino. Però con tecnologie meno raffinate hanno sempre un ritocco. Allora, sembra una cosa, una degenerazione dei tempi moderni, ma considerate che, se vedete i film bianco e nero, c'avevano la calza, che era la stessa identica cosa, la con calza, tecnologie, diciamo, la calza sulla telecamera. Esatto, è quell'immagine, la presa, è quel momento in cui tu vedi che l'immagine brilla un po' troppo, che sembra proprio come se fossi in un sogno, che era fatta per levarti le rughe, che è quello che fa Barbara D'Urso, che si spara le luci in faccia per levarsi le rughe. Sono espedienti analogici, vecchio stampo, ma il concetto è uguale. Il computer lo fa un po' meglio, ma il concetto è esattamente lo stesso. Ma chi è Barbara D'Urso? Barbara D'Urso è una giornalista, è sotto giornalista. Giornalista e conduttrice televisiva del pomeriggio di Canale 5. Anche attrice, perché è anche attrice. Niente, l'allergia mi ucciderà oggi, ragazzi. Cittadine e cittadini, l'allergia mi ucciderà. Quanto gli sarà costato a Netflix sto film? Ma veramente una barca di soldi. Cioè, io credo che veramente deve andare bene questo. Cioè, deve andare bene. Poi la gente deve vedercelo, deve vederlo su Netflix. Perché veramente... Ho capito, ma va al cinema o no? Sì, però sarà un passaggio rapido. Non è lì che fai i soldi. E dove li fa? Perché loro fanno così. La strategia di Netflix è: ma noi lo mandiamo in tutte le sale che... cioè, chiunque lo vuole, non glielo diamo. Non è un problema per noi. Lo volete in un milione? Noi ve lo diamo, senza problemi. Però noi non ve lo stiamo a spingere. Cioè, se non lo volete va bene uguale per noi. Però sappiate che va subito sulla piattaforma, che è il motivo per cui in realtà lo vogliono in pochi. Perché i cinema fanno cartello, certo, e dicono: noi non prendiamo niente che va subito in televisione. Niente. Allora, che succede? Vai nei cinema ribelli, nei cinema non affiliati, nei indipendenti, insomma, tutta un'altra serie, che sono poche sale. Quindi andrà in poche sale per poco tempo. Però considerate che sulla mia pelle, il film su Stefano Cucchi, italiano, che è andato su Netflix, è stato in programmazione mesi e mesi e mesi e mesi, perché le sale continuano a chiederlo e loro glielo danno senza problemi. Prendetevi il file, vai, tranquillo. Proprio. Tranquillo. Per cui le sale continuano a programmare. Ma Netflix con che guadagna? Con gli abbonamenti. Cioè, tu dici, essendoci Robert De Niro, il film, con De Niro e chi altro c'è? De Niro? Ma sai, è come la pubblicità. La pubblicità per un'azienda è in perdita. Cioè io sto spendendo dei soldi che non mi tornano direttamente, mi tornano indirettamente. Okay. E questo è un po' così. Io ti... La domanda mia è... Esce il film, quante persone si abboneranno per vedere il film? Ma non è solo quello. Allora, loro sicuramente contano che un po' si abbonano apposta, ma non è solo quello. È nel mio pacchetto, tu ti abboni per il mio pacchetto, per le tante cose che ti do. E in queste tante cose che c'è? Ci sono le serie strafighe, pazzesche, e ci stanno i film tipo quello di Martin Scorsese. Per questo io dico, è come la pubblicità. E soprattutto di questo film si parlerà tantissimo. E dovunque si parlerà si dirà, è su Netflix. Quindi anche gente che magari non lo sapeva, non è certo. Dice, però mazza, vedi Netflix, cioè loro si posizionano come quelli forti, quelli che c'hanno i campioni. Certo, perché ancora non sono arrivati i calibri pesanti. Vediamo gli altri che fanno. Il discorso che abbiamo fatto l'altra volta, Netflix, noi sentiamo parlare solo di Netflix praticamente solo di Netflix, perché loro sono gli unici che devono correre, perché devono battere gli altri prima che gli altri gareggino, perché non hanno un altro business. Netflix fa solo questo. Amazon in realtà vende la roba, Apple vende i computer, no, tutti hanno Prime, Disney non ne voglio neanche parlare, no, Prime Amazon, certo. L'ira di Dio, esatto. Per cui invece Netflix ha solo questa cosa, per cui non si potrà permettere di combattere con gli altri armi pari, perché non ha dietro un impero di soldi, e allora li deve battere prima che arrivino. Per questo corre più degli altri. Ma si stanno organizzando gli altri? Porca miseria, Disney ha tirato fuori una lineup. Il primo, sia Apple ancora, però non ha detto nulla di specifico. Disney ha cominciato, insomma, a tirar fuori le serie tratte dai supereroi, le serie tratte da Guerre Stellari, e poi c'era tutti gli spin-off dei suoi cartoni animati. Insomma, cominciava a tirar fuori un po' di roba, annunci, ovviamente. Ma quando atterrerà la piattaforma negli Stati Uniti e in Italia? Ammetto che non me lo ricordo. No, dico quest'anno, fra un anno, fra 10 anni. Non me lo ricordo. Niente, sto morendo. Niente, non te lo ricordo. Intanto leggo qualche messaggio. Rinco, lo spietato è con Scamarcio, non Favino. Giusto, lo spietato è con Scamarcio, sì. Lo spietato è con Scamarcio. Questo è il traditore. Ah, questo è il traditore. Sì, esatto. Avete già parlato di quanto Dolce Roma sia imbarazzante? Ma a me è piaciuto, te lo dico, a me è piaciuto. Stai mettendo in discussione la volontà popolare? La volontà non solo popolare, ma anche di un critico cinematografico, nonché redattore e conduttore di questa emittente. E questo gli aumenta lo status o lo diminuisce? Diminuisce. Se fosse stato solo un ascoltatore sarebbe arrivato alle stelle. Così è distrutto. Ma facciamo una rapida preview. Cosa c'è a Cannes? Non abbiamo detto che altro c'è. Allora, in tre parole, anzi, prima vi dirò in linea di massima. In linea di massima, qual è il problema del Festival di Cannes? Da 5 anni a questa parte il problema del Festival di Cannes è il Festival di Venezia, che è diventato molto potente. E quindi loro hanno questo grande problema: non hanno gli americani. Abbiamo detto, no, senza Tarantino non hanno gli americani. Perché vanno tutti a Venezia. Un po' sì. Allora, cosa hanno? E gli manca un'altra cosa. Loro hanno il Festival di Cannes. A un certo punto, 10 anni fa, io adesso lo dico col senno di poi, all'epoca non lo sapevo manco io, 10 anni fa ha fatto la scelta sbagliata. Ha sbagliato. Non ha capito che il cinema d'autore del futuro, quello da Cannes, andava verso il cinema di genere, polizieschi, horror. Ad oggi i polizieschi, gli horror e la fantascienza è il cinema d'autore nuovo più importante che c'è. E loro hanno cominciato a... non li prendevano questi nuovi, e questo è stato un problema gigantesco. A oggi, 10 anni dopo, si ritrovano che questi non vanno da loro. Cosa hanno quindi? Hanno una valanga di nomi pazzeschi, ma nomi adesso gli diciamo che fanno tremare le gambe. Ma se ci pensate un attimo, sono nomi forti di qualche anno fa, che rimangono dei grandi, per carità, ma non sono il cinema nuovo, non sono gli autori, le star del momento in crescita, sono i grandi vecchi. Chi ci sta? Ci sta Pedro Almodovar, Svam, ci stanno i fratelli Dardenne, ci sta Ken Loach, Terence Malick, ci sarà Elia Suleiman per gli amanti, ci sarà Werner Herzog, grandissimo. E più o meno diciamo che ci siamo. Questi sono gli immensi. Abel Ferrara, di giovani forti, chiaramente giovani quelli potenti. Ci sta Bong Joon-ho, che è un autore coreano fortissimo. Ci sta Xavier Dolan, che è la star più grande, perché, quindi rispetto, eh. E poi è un po' basta di giovani forti. Poi io vi posso dire che ci sta Jiao Nian, che è un attore giapponese veramente in crescita. Però è chiaro che voi dite, beh, e sai chi se ne... Ci sta Kleber Bendoza, che è un attore brasiliano in crescita. Ma insomma, cioè i nomi quelli forti in corsa, forti, che di moda, hanno... fighi. Ah no, ci sta Refn, la serie TV di Amazon di Nicholas Refn, che per carità è uno di gran che moda. Che serie? Si chiama Too Old to Die Young, è di Amazon, e Refn è quello di Drive, insomma è uno strafigo. Pensa che lui è talmente figo strano, lui è anche come Hitchcock, uno che fa un gran marketing di se stesso, è proprio bravo a vendersi. Per cui lui manderà in anteprima lì a Cannes gli episodi 4 e 5. Non 1 e 2, 4 e 5. È matto. Perché dice, bisogna vederla così la mia serie, così. Ma di che parla? Conoscendolo è roba di polizia, violenza, pistole, come ho detto, no? Il nuovo cinema d'autore è tutto di genere. Però insomma, ma lui è americano, una roba sua, lui è danese ma lavora in America. E è veramente stramatto. Lui è uno, è diventato forte con Drive, che è un film che conoscono abbastanza, è abbastanza conosciuto. E fa roba sparata. Lui, il suo mito è Alejandro Jodorowsky, per dire. Sì, lui pensa che aveva genitori hippie. Avendo i genitori hippie, non aveva nulla a cui ribellarsi, perché erano d'accordo su tutte le ribellioni. In generale, no, era tutto consentito. Allora, l'unica cosa che lui aveva per ribellarsi era la violenza, perché era l'unica cosa che loro non volevano vedere, non volevano sentire. Quindi è cresciuto con film ultra violenti, con Sergio Leone a manella, ma insomma con tutta la roba violentissima. E fa dei film molto intelligenti, molto sofisticati, molto violenti. E insomma, è veramente un grande. Però ecco, sono 3-4. Mentre invece sarebbe il caso che Cannes avesse di più. Per il suo futuro è un gran problema. Quando gli è stato chiesto al direttore del Festival di Cannes, che pensa come la deve aver presa sta domanda, gli è stato chiesto, ma insomma ci sono pochi americani, a Venezia ce n'erano di più. Lui ha detto, noi non siamo la dépendance di Hollywood, noi ci interessiamo di tutto il mondo, il cinema non è Hollywood, non siamo come dire, lo sgabuzzino degli Oscar, non ci interessa quella roba. Ah, non l'ha presa bene. Non l'ha rosicato un pochino. Beh, abbastanza. Perché lui dice questa cosa e poi ha detto: e comunque, tre dei film che avevano nomination al miglior film straniero erano venivano da qua. Sì, ma miglior film straniero. Cioè, non era. E comunque, Spike Lee che ha vinto l'Oscar ce l'avevamo noi. Sì, ho capito, Venezia ce n'aveva 8, però. Lui ne aveva uno. Lo so, ma è brutto. Thierry Frémaux, il direttore di Cannes, sta lì dal 2000. Sono 20 anni che sta lì. Ma basta. Per cui. Lui è partito in una maniera e adesso che negli ultimi 5, lui è partito che era Dio, e che negli ultimi 5 ci sia qualcuno che lo insedia molto seriamente, che solo da poco c'è gente che gli dice certo, sì, no, è bello il programma, è bello, bello, ma certo Venezia pure si difende, comunque voi coccoloni gli prendono, respira nel sacchetto. Quando Tarantino gli deve aver detto guarda, io non lo so se ce la faccio, a quello sicuramente si è messo a respirare nel sacchetto, sicuramente. Infatti adesso ha detto no, ma comunque io ci tengo, che cioè, ci sentiamo ogni giorno con Tarantino, ci sentiamo ogni giorno. Mazzata. Come stai, che hai fatto, che hai montato, dai, vabbè, però quanto manca, sì, sei arrivato, arriverà con la pizza calda proprio. La calza sulla telecamera mi ricorda qualcuno, tipo Berlusca, scrive una... i grandi trucchi vecchio stampo. Un anonimo. Allora, Disney arriverà con Plus a novembre. Bravi, bravi, bravi che siete informati. Novembre, anche in Italia? E questo non lo so, io non sapevo niente. Io di mio non so nulla, non ti preoccupare. Se sentite alcune interruzioni è colpa mia, perché mi sto strangolando con, a forza di starnutire, eccetera. Comunque, angolo per i cinefili, cinefili, cinefili. Io ve lo dico, io da Cannes, tra i nuovi, mi aspetto grandi risultati da Mati Diop, che è una cineasta donna africana, che se è arrivata lì vuol dire che c'è un gran perché. Zhao Yan, il cineasta cinese che aveva fatto, se l'avete visto, Fuochi d'artificio in pieno giorno, che è un film pazzesco, ve lo consiglio, è bellissimo, quindi mi aspetto... Ma di che parla? Allora, Fuochi d'artificio in pieno giorno è un giallo che si svolge in 30 anni, quindi c'è il presente e il passato, in un posto della Cina, cioè fuori dalla grazia di Dio, dove producono il carbone. Infatti è un posto molto freddo dove producono il carbone, è una roba terribile, ed è probabilmente un film di sopraffazione dell'uomo sull'uomo. A me è una roba che mi ha scioccato quel film. Mi aspetto molto da Céline Sciamma, che aveva fatto un film molto bello che si chiama Diamante Nero, io voglio vedere che fa adesso, che finalmente è in concorso. E ultimo, mi aspetto tutto da Xavier Dolan, che viene da un fallimento, che è il film che non riusciamo ancora, ancora non si può vedere quel film là. Cioè lui esce col prossimo e ancora non abbiamo visto il precedente, che era La vita di John F. Donovan. E adesso questo qui, Mattias e Maxim, insomma, è il momento che deve dar tutto. Ah, e Bong Joon-ho, che è il coreano matto, che è un grande, io... sono... ma ti dici tutti i nomi strani. Ma questo è il grande, cioè, a me devi dire, che ne so, Bon Jovi, per la come nella musica, Bon Jovi. Ma il nostro pubblico è sofisticato, il nostro pubblico ne sa e vuole, lo so, vuole essere stimato. Ah, e ovviamente, scusa, io non ho detto un'altra cosa. C'è una cosa molto che aspettavamo da un sacco di tempo. Tu l'hai visto Senna, il documentario su Ayrton? Che si chiama? No, okay. No. L'hai visto Amy, il documentario su Amy Winehouse, quello fatto bene? No, okay. No. Sono due documentari molto importanti, perché sono su due grandi figure, ma sono fatti bene, bene. Dove per bene vuol dire non solo sono raccontati bene e ti fa piacere vederli, ma hanno immagini mai viste. E non è facile avere immagini mai viste su due figure di questo tipo, su cui abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere. Su quello di Senna poi ci sono le riunioni di briefing pre gara, quelli dove i piloti si riuniscono tutti insieme prima della gara e discutono i problemi. Cioè, quella curva non va bene, bisogna mettere una via di fuga più grande. E c'è quella prima della gara dove è morto Senna, in cui lui si lamenta che quella curva lì non va bene. Cioè, è una roba incredibile. Porca miseria. Quindi, su Amy Adams, lui c'ha le foto private di Amy Adams, ultimo periodo. Cioè, roba allucinante. E lui è terribile, questo qua, questo regista, si chiama Asif Kapadia. Lui l'ha fatto quel documentario su Amy Adams in collaborazione con i genitori, facendogli credere che... Chi è Amy Adams? Amy Winehouse? Scusami, Amy Winehouse, scusate. Non capivo, dico Amy Adams. Scusa, Amy Winehouse. L'ha fatto in collaborazione con i genitori, facendogli credere che era tutto dalla parte loro. Quindi si è fatto dare tutto il materiale, i video privati, cioè della roba pazzesca. Ha un video amatoriale privato di Amy Winehouse, fatto a inizio carriera, in un bagno di un locale ignobile dove si esibiva proprio agli inizi, che si fa per la prima volta il trucco, quello anni un po' 60-50, che è un documento pazzesco, è pieno di questa roba. In realtà il documentario è tutto contro i genitori. Capito? Vabbè, così poi no, non farà più film, perché va da uno, allora, cioè, adesso per esempio muori tu. No, mettiamo, ma aspetta, in modo, adesso lui va dai tuoi genitori e dice: guarda, io sono amico vostro, mi dia tutti i documenti. Molti dico su chi è il nuovo filmati. Documentario. Se dico io sul nuovo che sta a Cannes, dopo doveva starci l'anno scorso, c'è, cioè quest'anno. Chissà che ha fatto in quest'anno. Maradona. Pensa, Maradona, che cosa non ha trovato. Deve aver trovato della roba incredibile. Capirei solo se va a Napoli. Cioè, sì, vabbè, lasciamo stare. Ah, e poi ci sarà nello slot, per esempio, in questi grandi festival c'è molta roba d'autore, ma c'è sempre uno o due film molto commerciali, molto. E quest'anno lo slot del film commerciale è Rocketman, il film su Elton John. Ci sarà anche Elton John al festival. Io sono andato sul set. Ma non dai, posso dove? Dire. Non posso dire ancora niente. Pensa. Ah, sì, ma dove? A Windsor. Windsor è poco fuori Londra. Ho dovuto piare la macchina con la guida a destra. Ma no, l'ho presa pure io una volta. Esatto. Mamma mia. Un incubo. Ma tu per andare fuori, io per girare a Londra, volevo morire. Per andare fuori devo girare un po' a Londra prima di uscire. Madonna, volevo morire. Sì, da morire. E rotonda al contrario. Ci avevo il morire. Patema d'animo, sì. Dopo due ore mi sono dovuto scendere, non ce la facevo più. No, ma per uscire da un parcheggio. Che c'è? No, terribile. Io non sarei capace. Sì, no, fa la manovra. Cioè, fanno delle cose proprio. I semafori a girare. Sì. La rotonda nell'altro senso. La rotonda al contrario. Ma cosa. Vabbè, comunque, cioè, sono andato su fare questa set visit di cui non posso dirvi niente perché è tutta embargata ancora. Io non posso dire niente di niente. Ma c'è Elton John nel film? No, è un film sulla sua vita senza di lui. Ma il film è molto fantasioso. È un film non realistico. E questo mi piace un sacco a me. È un film molto musicale in cui ci saranno un sacco di scene. Se tu vedi il trailer, c'è gente che vola, capito? Cioè, è proprio totalmente irrealistico, però mi sembra molto bello. La scena che ho visto io, questo lo posso dire, non dico che scena è, ma posso dirvi che era un numero musicale, quindi io ho visto loro che cantavano e ballavano con una valanga di persone, veramente tanto, e col protagonista che fa Elton John in quel momento ha 16 anni, se non sbaglio, ed è il momento in cui lui scatta, diventa grande, come ed è un lungo piano sequenza, infatti la scena durava un minuto, cioè un minuto di Chuck, in cui lui l'avrà fatta 18 volte, tipo, in cui entrava, faceva questo numero musicale, cantava e tutti ballavano, c'era tutta la coreografia, poi stop, ricominciavo da capo in una fiera di paese ricostruita da zero. Cioè zero, in mezzo al niente, avevano costruito, cioè, la ruota panoramica, il coso, pieno di gente, con lui che fa il numero musicale in mezzo. Però sai che c'è, a me questi film, pure quello dei Queen, con... Ma il film è orrendo, ma fa veramente schifo quello dei Queen. No, con gli attori che simulano in maniera anche, insomma, grossolana e goffa, sì. Io ho visto solamente i trailer del film dei Queen, orrendo. Sui Queen, non mi piacciono. Guarda, cioè, o mi fai vedere l'originale, allora, o se no in linea di massima neanche a me. Infatti, ma che mi fai vedere un di attore? Questo apprezzo, ma dai. Di questo apprezzo che va proprio da un'altra parte, cioè che proprio lo facciamo fantasioso. Le canzoni addirittura, che è una cosa che non mi piace del film The Queen, che le canzoni sono originali, per cui tu stacchi troppo, cioè prima c'è lui finto, poi il disco che io già conosco, ma che è? Mentre invece qui sono tutte ricantate, quindi sono diverse, diverse. Ricantate con Elton John che supervisiona chiaramente, che dice così, colà, eh? Ha un senso, se non altro. Stai facendo una cosa che è diversa, riarrangiate, risuonate. Beh, stai spoilerando, forse è il caso di fermarsi. Ora che ti fermi, che ti, forse è il caso ti di denunziano. Allora, mi dicono che uscirà negli USA a novembre. Disney Plus. In Italia non previsto al momento. Vabbè, non poracci, previsto perché ancora, no, ancora poracci, non c'hanno la poraccitudine proprio, poracci. Vabbè, poi faranno gli abbonamenti. Se ti abboni a questo, ti diamo anche Disney Plus. Vedrai. Ma senti, Vasquez. Qui siamo in dirittura d'arrivo, non abbiamo neanche affrontato. Parliamoci chiaro. Adesso, che il regista che doveva fare James Bond voleva ammazzarlo in 25, cioè il film che uscirà. Figo. Danny Boyle. Era Danny Boyle. Sì. Non va bene. Ma no, dai, non è idea figa. A me io no, no, non va bene. Non va bene. Secondo me non è idea figa. Bond già muore in Si vive solo due volte. Esatto, all'inizio. No. All'inizio muore. Farlo morire veramente. No, ma l'idea è forte perché poi ricominci da capo, poi, capito? Tutto nuovo, cose nuove. Che vuol dire ricominci da capo? Ricominci 007 licenza ad uccidere. Da dottor capo, no. Sì, moderno, ricominciato da capo. Ha un'idea che ha un senso. E chi ci metti? Ma a quel punto puoi cominciare anche con un pischello, magari. Puoi rivedere tutto, capito? Cioè puoi chiudere allora, con un mondo e aprire ti con dico, un nuovo. Ti dico questo. Stammi a sentire perché... No, perché tu già mi hai fatto un nome e io ti avevo fatto per primo. Te l'avevo fatto io quel nome, No, io ti sto dicendo un'altra cosa. Scusate, ascoltatori, dobbiamo dibattere un attimo in privato con lui. Ti dico questo. Questo è un uso privatistico della radio. Vabbè. Il prossimo Bond sarà uno sconosciuto, come fu con Dottor No. E ti dirò io di dico, più. Dico, la Bond Girl sarà sconosciuta pure lei. Io dico, ufficialmente Ursula Andres. Secondo me non sarà così. Lo dico proprio ufficialmente, Piazziamo le nostre scommesse. Io dico di no. Dico che non se lo possono permettere lo sconosciuto. Che vuol dire non se lo possono permettere? Devono staccare. Devono dare un taglio secco. Non possono mettere uno famoso. Non lo possono fare. Te lo dico da spettatore. Se mettessero uno famoso, non mi piacerebbe. Non lo so. Ma poi dipende, perché magari ci sono gente che è famosa in Inghilterra, ma non per noi. Cioè, Daniel Craig era famoso in Inghilterra, faceva già i film. Famosino. I film li faceva. Sì, ma robetta. No, per noi faceva robetta. Noi non lo conoscevamo. Ah, faceva robetta, dai. Faceva film. Cioè. Sì, dai. Cosette. Gli attori che vogliono mettere ora sono stra certo, famosi. Certo. Cioè... Lì metterà fra tre anni uscirà il prossimo, 3-4 anni uscirà il prossimo, metteranno un attore sconosciuto. Bah, io dico di no. E ti dirò anche di più, d'accordo. Somiglierà a Sean Connery. Guarda, mi sono sbilanciato, mi sono sbilanciato. Di più non posso dire. Sì, sono d'accordo con quello che scrive un ascoltatore e un'ascoltatrice. Il film dei Doors era bello e lui era perfetto. Cioè, lui era veramente uguale. Era uguale identico. Era veramente uguale. Vabbè, parliamo dei film che usciranno questa settimana in televisione. Ah, questa settimana esce Il Campione. Il Campione è un film che io vi consiglio a tutti. È veramente un bel film italiano. È la storia di un calciatore di Serie A della Roma, che è un campione, chiaramente è bravi, è uno dei giocatori, diciamo, giovani più forti che ci siano del campionato, ma è un disastro. È una specie di Balotelli o di Cassano, no? Quelli che la società non riesce a gestirlo. E allora il padrone del club decide che per dargli una raddrizzata lo mette fuori squadra. di squadra e dice: io non ti faccio rientrare in squadra fino a che tu non cominci a dare addirittura esami a scuola. Ti diamo un professore, come dire, un'esperienza formativa, no? Studiare ti formerà. Anche studiare poco, no? Non si sa che devi diventare, però come tipo di esperienza. E questo professore lo scelgono tra gente che non sa niente di calcio. Prendono Stefano Accorsi, che non ha proprio la minima idea di cosa stiamo parlando del calcio, e si creerà un grandissimo legame. Come avete capito, è un film molto all'americana, questa è la classica storia americana, ma è fatto veramente bene. La differenza la fa che il contesto del calcio è perfetto. Oh, perfetto. Perfetto proprio, perfetto dal calcio giocato, non c'è tanto, ma quando c'è è perfetto. Perfetto dal coté, cioè il procuratore, il presidente della società, il rapporto con i tifosi, la ricchezza, il Lamborghini, la ragazza, i vecchi amici coatti che gli infestano la vita, la gente per strada che lo vuole fotografare, è perfetto. Alla fine è un buon film, ci può scappare la lagrimuccia come è scappata a Francesco Totti quando l'ha visto. Mo te l'ho detto. Giù la porta e ci siamo trovati fiamme alte 10 metri. Una volta ho curato un alligatore di 2 metri. Io sono un'impiegata del ministero e mi occupo di buste paga. Grazie. Qual è il nostro obiettivo principale? Proteggere i cittadini senza che se ne accorgano. Dal regista di Come un gatto in tangenziale. Per vendicare i tuoi ex compagni di scuola. Allergie? Sono allergica ai gamberetti, proprio mi sento morì. Tu dammi un gamberetto, io schiatto. Gonfia, c'è la bocca gonfia, la lingua gonfia, la gola gonfia, c'è tutta gonfia. Perché tu e papà vi siete lasciati? Perché mamma e papà fanno tutte e due dei lavori troppo impegnativi. Lui sì, ma tu calcoli la trattenuta da conto. Si dice ritenuta da conto. Allora, Vasquez, l'hai visto questo qui? Certo che l'ho visto. Dimmi che è bello, carino, divertente. Allora, è divertente, ma secondo me non è bello. Allora, ride fa ride, e questo chiaramente è importante per una commedia. Fa ridere. Tutto si chiama Ma cosa ci dice il cervello? È il nuovo film con Paola Cortellesi. Attenzione, Come un gatto in tangenziale, il film precedente, era stato un successo veramente grande. Ha fatto 10 milioni. Mazza, sì. Questo è un film ad alto budget. Alto budget girato in diverse nazioni. Come avete capito dal trailer, lei è un agente segreto e quindi ci sono diverse scene d'azione. Le scene d'azione fanno veramente il passo più lungo della gamba. Proprio non era il caso. Però ci hanno speso, ci sono diversi paesi. Ogni attore del film è un talent, cioè è un attore famoso, ognuno. Anche le parti piccole. Ci sta Ricky Memphis, avete visto, c'è stata Paola Minaccioni, Vinicio Marchioni, Stefano Fresi, Carla Signoris. Insomma, è pieno. Remo Girone, che fa il capo dei servizi segreti. Insomma, è pieno di queste cose. È un film, insomma, alto budget. Secondo me ha troppi temi, cioè troppe storie dentro, è mal amalgato. Però io devo ammettere che fa ridere, quando vuole far ridere fa ridere. Lei è brava. Non è a livelli di Come un gatto in tangenziale. No, era un pochino più dritto al punto, mentre invece questo qui veramente vuole fare talmente tante cose. Sì, è anche molto morale, ha un forte intento morale di condannare certe cose e far vedere che le cose giuste sono altre. Principalmente l'atteggiamento che tutti quanti possiamo condannare delle persone che vediamo intorno a noi, da cui poi viene il titolo, Ma cosa ci dice il cervello. Insomma, io non lo so se andrà altrettanto bene come Un gatto in tangenziale. È un film quando esce? Non scontato, questa settimana. L'ho anticipato, hai visto? Lo so. Prego, Vasquez. Altro film che esce questa settimana è Il ragazzo che diventerà re. È un film americano. Ma sempre quelli nell'Ottocento vestiti? No, questo è moderno. Attenzione, questo è un film non sciocco, anche se a me non è piaciuto alla fine, ma non sciocco. Nel senso che sciocco. Giorni nostri, quindi moderno, Inghilterra, il paese è nel caos. Quindi già tu capisci a capire che no, questo è un po' un film che commerciale, commercialissimo, che però risente un po' di Brexit, no? Cioè, racconta un'Inghilterra che è nel caos più totale. Ci sono un'inquadratura con tutti i giornali che dicono terrore, cose. O due bambini di 13 anni stanno a scuola e hanno i tipici problemi da 13 anni a scuola, bulli, cose. A un certo punto uno di questi qui, scappando dai bulli, finisce in un cantiere. Nel cantiere, in un pilone mezzo distrutto che è ancora in costruzione, trova una spada che estrae. Praticamente quello che succede è che, siccome il mondo è di nuovo, anzi l'Inghilterra è ancora di nuovo nel caos, torna Excalibur. E lui che la estrae è la spada nella roccia, spada il cartone roccia. Animato del moderno. Ma è anche comunque il mito di Re Artù, i Cavalieri della Tavola Rotonda, ma come il cartone animato è la spada nella roccia, sì, per carità, è famoso. Certo, però da piccolo io, diciamo che loro si rifanno, ha portato mio papà, non essendo la Disney, non possono, si rifanno al mito di Re Artù, a quella roba lì. Già, non possono, è vero. E quindi ci sarà Mago Merlino, però è il Mago Merlino del mito, non quello del cartone, chiaramente. E lui dovrà radunare i cavalieri, questo ragazzino dovrà radunare i cavalieri da tavolo, dovrà combattere, quindi moderno adesso, fatto adesso, cioè, adesso dovrà combattere Morgana che ritorna, c'è tutto un che è la grande metafora del paese essere... che si... Allora, secondo me il film ha una grandissima prima parte, fatta veramente bene, quei film per ragazzi d'azione carini, divertenti, cioè proprio bella. E una seconda molto meno, è molto più un po' ripetitiva, ha due finali, che è una cosa che ti ammazza sempre quando pensi che il film è finito, invece no, ancora no, arrivai avanti, insomma. Insomma, se a lui non piace, a me piacerà sicuramente. Non hai la minima idea di quello che ti aspetta. Il signor Wick ha infranto le regole. Lei capisce che ci saranno conseguenze se sopravvive. John Wick, la scomunica è ora in vigore. Non dovevi venire qui. Bel vestito. È bello rivederti. Mi serve il tuo aiuto. Se accetti, sarai tu a dovermi qualcosa. Guarda, non vedo l'ora che esca il 3. Non ne parleremo perché esce mentre io sono a Cannes, attenzione. Ma chiamerò un altro critico cinematografico. Non sarà la stessa cosa. Ho l'agenda piena. Sira, apri l'agenda, la tua agenda, vediamo, per favore. Vediamo, sì. Ne ho trovate CD almeno critico. Tre. C di critici cinematografici. CC no. Ma l'hai visto? No, tra 16 maggio, tra un mese esce. Io il 23 vedo Avengers. La grande Avengers, l'ultimo, quello che io ho perso chiude. Il conto. Quello che chiude. Ma che chiude? Ma che chiude? No, beh, no. Chiude tutto, poi andranno avanti, però chiude tutta una serie di storie. Cioè, è il culmine degli ultimi 10 anni di Marvel Studios, Allora, cioè, Avengers, quale aspetto? Avengers, il primo era nel 2010, se non sbaglio 12, e già metteva insieme le storie che erano partite in Iron Man del 2008. Quindi proprio stiamo parlando di cos'è. Ah, e Avengers, già lì sì, si Avengers. Mettevano delle trame che si chiudono qui. Qui si chiude tutto. Sarà un filmone bombone. Cioè, sono talmente terrorizzati dagli spoiler. Cioè, il terrore è tale di quello che possiamo. Non solo che ce l'hanno scritto grande così nella mail, cioè a carattere font 72. C'era scritto: cioè, che se spoilerate, vi leviamo. Perché non vi invitiamo mai più a nessuna proiezione stampa. Ma ce lo fanno. Il film esce il 24, ce lo fanno vedere il 23 notte. Mazza. Proprio della serie all'ultimo secondo disponibile. Per terrore degli spoiler. Secondo me il 20 uscirà già su alcune. Beh, cioè, pirati, per carità, pirati, non lo so, perché la prima proiezione in America quando esce? Vediamo quando esce in America? Secondo me esce lo stesso giorno in tutto il mondo. Per terrore di questa roba. Immagino. Allora, da noi il 24, in America il 24. Uguale. Secondo me pure gli americani glielo fanno vedere il 23 sera. Corre voce da tempo che il prossimo 007 sarà Idris Elba. No. Allora, c'è questa idea di farlo sì, nero. No. Ma ormai c'ha un'età Idris Elba. prossimo 007 sarà donna pure qui. No, via via via via via via via via via via via via. Posso fare una domanda a Gabriele? Sì, aspetta che devo finire un attimo. Gabriele, Excalibur e la spada nella roccia sono due spade differenti. Excalibur, no. Artù la prende dalla Dama del Lago. No, la riconsegna la Dama del Lago. C'è no, un film. Re Artù la tira. Allora, cioè, il cartone animato la tira fuori. Sì, sì. Dalla roccia. La mitologia vuole che la tira fuori dalla roccia. Poi c'è un film che si chiama Excalibur in cui c'è la Dama del Lago, che è presente anche nella mitologia, e anche in questo film c'è la Dama del Lago a cui lui la riconsegna e se la fa ridare. Ma la prima volta che la prende, quando si incorona re, la prende dalla roccia. Hai visto? Cioè, la risposta. Tutti precisi qua. Prego, sì, cioè. Sira. E questo è l'angolo polemico, ovviamente. Attenzione. Ma un film che potrebbe piacermi? Un film che potrebbe piacermi? Figurati se non lo troviamo. Ce l'abbiamo. Abbiamo. Attento, abbiamo le Invisibili. No, guarda va che bene, di, Le Invisibili di. È una storia di queste. Assoluto è fatto con protagoniste prese dalla strada. Attenzione, che hanno veramente vissuto questa storia. Ed è una storia di tutte queste donne, sono solo donne, che stanno in un centro per donne senza tetto a Parigi, che vengono, come dire, instradate al lavoro, no? Vi insegniamo un mestiere. La cosa interessante è che a un certo punto, per una serie di questioni, questo centro viene chiuso. Viene chiuso, loro non sanno dove andare, vengono sgomberate, perché chiaramente sono senza fissa dimora. Allora le uniche tre attrici vere, attrici cioè serie, che sono quelle che interpretano le persone che gestiscono il centro, decidono di non mollarle, di prendersele un po' a carico, di trovare un posto dove continuare, tra virgolette, clandestinamente a fare questa operazione di trovargli dei lavori. Solo che queste persone hanno avuto ognuna vicissitudini incredibili. Nel film vengono raccontate sul serio, cioè le vicissitudini che loro raccontano sono quelle che hanno veramente vissuto, che sono i motivi che le hanno portate a essere senza fissa dimora. Ci sono ovviamente ci saranno i migranti, ci sono, certo. Ma ce n'è una che è incredibile, una che è allucinante, che è una signora anche di una certa età, molto sovrappeso, molto che si è fatta anni di galera perché ha ucciso il marito che la picchiava, però. Per cui, insomma, sono delle storie incredibili e ti fa vedere molto come agiscono queste persone, come la loro carriera. Chiaramente è fatto in forma di fiction, quindi c'è una trametta, ci sono delle cose, c'è anche un che di divertente, come dire. Non è un film che ti deprime, anche se racconta cose non lietissime. A me non devo dire non ha fatto impazzire, perché secondo me è un po' ruffiano, però è un film sicuramente fatto a dovere. Grazie. Prego. Grazie. Un film sugli animali, un documentario. No. Per i film sugli animali sfruttano gli animali. Mai. Però i documentari sulla natura li guardano natura da lontano con grandi obiettivi. Guarda, no, National Geographic, documentari. No, non sì. Dirmi che no, documentari. Allora, sì. Guarda, c'è, sì. Aspetta. Documentario? Sì. C'è un film con animali? Io sto no. In fissa. Con i documentari? Porca miseria. Ma certo. Quelli sul mare, sui pesci. Ma no, bellissimi, no, quanto mi piacciono. Sono stupendi. Allora, c'è un documentario. Our Planet. È un documentario che sta su Netflix, di cui si sta parlando tanto. Io devo ammetto che non l'ho visto, però è un documentario veramente di fattura straordinaria. Ho visto il trailer, è impressionante. E c'è una scena che in molti stanno discutendo, perché è una scena cui ovviamente chi riprende non ha nessuna influenza. Io sto lì e filmo. Però dicono in molti che è una scena dura, è una scena che riguarda dei trichechi che muoiono in maniera naturale, così. Però muoiono tutti insieme. Perché c'è una scogliera, insomma, ho letto da diverse parti che diverse persone sono rimaste un po' impressionate da questa roba, che però fa parte della natura, lo sappiamo benissimo. Vabbè, la morte, sì, immagina, anche in maniera fa parte della natura. Certo. Piccola riflessione, immagina se fossero umani. Ah no, certamente fa impressione, certo, impressione. Umani fa impressione, sì. Trighego non siamo. Perché? Perché non siamo noi. No, perché anche quello è un essere vivente, sì, sì. Per carità, no, certo. No, ma non siamo noi. È chiaro che noi abbiamo più impressione alle cose che capitano a quelli come noi, per somiglianza. Ma guarda che è soltanto una mancanza di sensibilità. Perché se tu vedessi un gruppo di cani morire tutti insieme, farebbe effetto. Ma anche fossero gatti. Dipende. È proprio la conoscenza che tu hai dell'animale, sì, sì. Ma sicuramente proprio è un concetto. No, però aspetta, ignorare. Ci sono due livelli. Cioè, il livello numero uno è quello che dici tu. Cioè, con chi io ho un rapporto sentimentale, con gli altri esseri umani, con i cani e con i gatti, solitamente. Poi c'è anche chi ce l'ha con altri animali. Certo. Però gli animali sono questi, quindi mi impressionano questi. Mm-hmm. Però c'è anche il fatto che è un mio simile, io col mio simile per forza ho un rapporto maggiore, ma è per motivi naturali. Io, per esempio, che i rapporti sentimentali con gli animali zero, cioè a me non me ne frega niente manco dei cani, ma non ce l'ho con loro, ma è proprio zero, è un mondo che per me è come gli oggetti, non mi interessa proprio, quindi né bene né male. Mi impressionano i trichechi, alle volte mi impressionano comunque i trichechi che muoiono, perché comunque, sai, come dici tu, forme di vita, però mi impressionano relativamente, non come gli umani, e mi impressionano tanto quanto i cani, non di più, non di meno, quindi molto meno degli uomini, mi impressionano molto di più perché per me sono i miei simili, è quello che è. Quindi secondo me ci sono due cose che contribuiscono a questa cosa che tu dici, no? Che ci impressiona diversamente. A te darebbe fastidio di vedere i trichechi che muoiono a grappoli? Ma vabbè, questo è un altro discorso, è una cosa che si basa sulla mia sensibilità. A me la morte fa parte della natura, per cui certo. Anzi, in natura, più che noi abbiamo mille tecniche per non morire, loro non no. Non mi piace vedere soffrire, questo mi va a turbare. Beh, però quello è l'interpretazione. Essendo un documentario dove l'essere umano non interviene, cioè riprende e basta quello che accade nel mondo della natura, come quando tu vedi, che ne so, un leone che prende un impala, lo cattura e lo mangia, e quello muore, poraccio. Certo. L'impala muore. A me non impressiona. Che così fai? Tanto. Vai lì e gli dici al leone: levati, stai uccidendo un impala. Perché a lo fai? A me non impressiona così tanto. Oppure, la morte di un animale. Un boa costrittore che uccide un passeretto. Se lo stridola porino, un passeretto. È la natura. Sì, ma infatti a me non il documentario è quello, cioè riprendere le cose asetticamente, sta lì con la telecamera e riprende quello che è la natura, quello che fa la natura. Assolutamente sì. Okay. Dipende, ripeto, dipende molto dalla sensibilità personale, dalle affinità che uno ha con un determinato aspetto della natura nel quale uno si rivede. Scegli una porta. Quella lì. No, quella è mia, scegliene un'altra. Che hai nel cervello? Avevi ragione, è la tua porta. Ci sono un sacco di cattivi lì dietro. Fighissimo, le botte a suon di musica, fighissimo. Figo. Accesso abilitato. Accesso negato. Accesso negato. Accesso negato. Stiamo vedendo, state ascoltando Fast and Furious, Hobby e Show. Abbiamo dei conti in sospeso. Questo che è lo spin-off di Fast and Furious. Se avete seguito la saga, il personaggio interpretato da Dwayne Johnson, cioè The Rock, che è Hobbs, avrà una sua trama tutta sua con Show, che è il personaggio interpretato da Jason Statham. Sai perché? Diciamo, ci do un dietro le quinte. The Rock e Vin Diesel sono veramente ai ferri corti. Ma proprio, cioè non si possono vedere. Infatti non c'è. Infatti. E lui, The Rock, è diventato talmente grande come popolarità, come cos'è, che a un certo punto, anche se lui è venuto dopo in Fast and Furious, sembrava la terza o la quarta. Sì, può battere i pugni. Addirittura, forse addirittura al quinto lui è entrato. Può battere i pugni e dire: eh no, e invece allora io ne vado. Allora hanno detto: no, facciamo due diversi. E tu c'hai il tuo, lui c'ha il suo. Ah, ne faranno uno con Vin Diesel pure. La serie, quelli che hanno proprio il titolo Fast and Furious, è con Vin Diesel, essere guadagnati. E lui, The Rock, invece porta avanti il suo personaggio parallelamente. Fast and Furious, Hobby e Show. Io volevo farti diventare ricco. Ma io sono un semplice. No, ti dico. E il piccolo Lord. E non l'abbiamo voluto. Non l'hai fatto. Non l'hai voluto fare. Il remake del piccolo Lord, niente. Il remake, vedi, eravamo pure sotto Pasqua. Vabbè, però, siamo ora per l'anno prossimo. Per Natale potrebbe uscire. Ci si fa adesso a fare un film? No, viene male. Guarda Scorsese il tempo che si è preso. Ho capito. Perché io meno di Scorsese? Scusa. Pasqua prossima, un anno per fare un film. Guarda, Natale 2021. Sei pronto? Vai. Il remake di Bernadette. Oh no, dai. Aspetta. Aspetta. Non l'abbiamo detto Bernadette mai, vero? No. È Pasqua, su. È Bernadette, una santa. Oh, Bernadette fregò la corsa agli Oscar a Casablanca, pensa te. Vinse Bernadette? Sì. Ma veramente? Beh, giusto. Lo vedi che io non sapendolo, ma essendo non sapendolo so, un grande critico pure io, ma uno scopritore di cose per far soldi nel cinema, avevo intuito che Bernadette sarebbe stato un film straordinario, e sarà un film straordinario perché? Vai. Perché Bernadette non la facciamo ambientato negli anni che erano 40, 50, no, primi 900. 1900, ma nel 2021. Ma sempre lo stesso posto? Sempre lo stesso posto, però ci sto lavorando ancora. Però lei, la Madonna, quando gli appare, che fa? Vediamo se ci arrivi. No. Senza essere blasfemi, perché io... No, le bestemmie, di nuovo tu. Che fa? Quando gli tu l'hai visto, Bernadette? Sì. Ti ho mandato pure il link per vedere. Ti dovevo preparare a questa cosa. Quando gli appare la Madonna a Bernadette, è insomma nel 2021, perché uscirà nel 2020 uscirà il nostro film. Guarda che c'è un film che quasi ci va vicino. Vediamo cosa dice. C'è un film che quasi gli va vicino. Aspetta. La Madonna che fa? Canta. Yemena. No. Ma no, che Yemena? La Madonna. È la Madonna, scusa. C'è un film italiano in cui la Madonna appare Alvaro Orvacher e Yemena. Yemena. Perché Alvaro Orvacher non vuole fare quello che dice. La Madonna dice: tu costruirai. Madonna vestita tradizionale, eh? Cioè, tu costruirai una cattedrale lì dove sorge i campi di grano. E lei dice: no, no, non ne vuole sapere. Ma lasciami stare proprio. Ma io non faccio la mia vita. La seconda volta gli appare, glielo dice: no, no, guarda, no. Alla terza comincia con le pizze. Ma non ci vedo. Sì, poi comincia a tirare i capelli. E poi gli mena proprio, fino a che lei non si decide. Ma che film è? Si chiama Troppa Grazia. Fantastico. È un film italiano. È uscito l'anno scorso. Ah, ma è uscito? Sì, sì, c'è anche Elio Germano. Segnalo, Sira, presto. Insomma, per fartela breve, queste sono idee. La Madonna che mena. Ce n'ho una 100 volte migliore. Che dice la Madonna, quindi? Gli appare la Madonna alla ragazzetta. Sì. La ragazzetta di 17-18 anni che sta lì in campagna. Non è campagna, ma bensì oramai è diventato un quartiere, sì, degradato, periferia delle città, periferia, esatto. Proprio estrema periferia, degradato, cioè spaccio, droga, eccetera, prostituzione. Lei è una prostituta che è stata messa bambina, sulla strada, giovane. La lei Madonna dice: fatti Netflix, perché noi lo vendiamo a Netflix. Gli dà no, vedi i superpoteri. Madonna! Gli dai i superpoteri dati dalla Madonna, cioè. Della Madonna! Sai che superpoteri della Madonna che, cioè, che gli dà? Gli dà i superpoteri? La Madonna gli dà a Bernadette. Per così, fare del bene, chiaramente. Così nacque Cibernella. Cibernella. Che è Cibernella? Ah, è vero. Cibernella. Punta sulla stella, gira la rotella. E vai, Cibernella. Non conosco. Ma superpoteri seri, tipo quelli di. Volare, che ne so. Sì, volare. Bella volare. Fai così, con la mano, lo congeli, lo cosi, lo fai diventare brutto. Poteri classici. Sì, e poi superpoteri. Tra i super tanti superpoteri c'è anche 7 peccati capitali. Che con le mani che lei li manda. Li manda e arrivano le cavallette, le cose. Ah no, le 7 piaghe. Le 7 piaghe. Piaghe. Diventi un goloso che ti mangi tutto. No, le 7 piaghe d'Egitto. Lussuria. Magari. Tu subito, lussuria. Ladro. Ma insomma, non ti piace questa idea? Non lo so. Perché lei diventa potentissima. Il protettore, cioè il pappone, dice: quando... No, come il pappone? Il pappone. Oppure lei è prostituta. Cioè, è prostituta, scusa. Lei vuole scappare da questa vita. Non ce la fa perché il protettore la pesta sempre. E pesta anche tutte le sue amiche. Lei torna dopo aver visto la Madonna. E la Madonna gli ha dato i superpoteri. E mena il pappone. Fra pezzi. Fa proprio a sventra questo proprio. Però ci inimica la chiesa, capito? No, perché? No, come? È la vendetta del Signore contro la cidia, contro, capito? La vendetta della Madonna. Ma dente per dente, allora, occhio per occhio. Se lo vogliamo fare, dobbiamo... Devi trovare una forte, però. No, dobbiamo contattare Fica. Dobbiamo contattare, fare Bernadette. No, ah! Dobbiamo chiamare il... Cioè, sai che c'è un ufficio del Vaticano che si occupa di questa cosa? Tu vuoi sviluppare un film che sia in linea con... Ci sono dei cardinali apposta che ti seguono. Dobbiamo contattare loro. Dobbiamo farlo, certo, con la Chiesa. Certo. No, io lo voglio fare ecclesiastico. Cioè, voglio farlo in linea con le chiediamo udienza. Ci pensi tu? Sì, adesso muovo io le mie leve. Va bene. Famo i soldi, Vasquez. Famo i soldi con la pala. Con la pala. Ma li diamo in beneficenza, perché è fatto per la chiesa, per i poverelli. Certo, li diamo. Allora, tra tante, la spada nella roccia viene distrutta, se non ricordo male, ma potrei sbagliare. Sì, quella è la parte avanzata della mitologia. Poi adesso non devo dire, non ricordo tutta la mitologia, perché il ciclo arturiano di mitologia è molto lungo. Noi conosciamo solo la prima parte. Allora, sta ragazza è da premio Nobel. Messaggio per te, Sira. Oh, grazie. È un ascoltatore, un'ascoltatrice. Bernadette di colore. Guarda, potrebbe essere. Guarda, bravo. Perché in Francia, a parte, in Francia adesso è pieno di, chiaramente, i francesi sono anche molto di colore, quindi. Ah, certo, potrebbe essere. Sì. Anzi, ti dirò di più, che alla fine lei metterà pace nel mondo dell'Islam. Attenzione. Alla fine, quando lei proprio questa cosa però, quando la diciamo al cardinale, io esco. Cioè, gliela dici tu. No, però metterà pace nell'Islam, tutti diventeranno tranquilli, senza bombe, sparamenti, cose, gente che si suicida, eccetera. E la Chiesa invece cristiana andrà a braccetto con l'Islam. Ma glielo dici tu? Ci bisogno di dire, cioè, sempre io ci devo essere. È troppo grande come idea. Guarda, è un po' troppo esagerato. È una buona idea, però gliela dici tu. Va bene. Sai quanti film gli ho consigliato di fare? Quanti anni so che ci conosciamo, Vasquez? Secondo me 10, 12, 13, 13 pure 15. Dal 2007, secondo me. Un po' prima pure. Secondo me no. Centinaia di occasioni mancate. Ogni settimana io gli sparavo lì un remake, un sequel, e lui non ti ha mai dato credito. Mai fidato. Io continuo a dire il prequel di 007. Famo. Ma non abbiamo i diritti. Questa è l'unica cosa di cui non abbiamo i diritti. Beh, ci andiamo a parlare con Broccoli Inc. Broccoli Inc. E gli diciamo: noi abbiamo un'idea. L'abbiamo registrata. Dove si registrano le idee? Asiae. No, Asiae. Lei ti risponde: me coglioni. Asiae, me coglioni. Non dire male parole, sennò diventiamo come tutte come quelle altre radio. Esatto. Gabriele, ma cosa dici? Al registro delle idee dei cinema, dei film. L'ufficio brevetti. Abbiamo questa idea. Se ci date il 10% dell'incasso, noi vi diamo l'idea. Loro rispondono: vabbè, ciao. 10% è un botto. E poi lo fanno lo stesso. Eh no, noi abbiamo i diritti. Abbiamo, è vero, l'abbiamo depositata. Certo. 10% è un botto, sì. Sì, tenendo presente che fanno 100 milioni di dollari, 120. Certo. A te ti bastano 10 milioni di dollari. Beh, sì. Stecchiamo 5 per 5. Allora, ma facciamo una serie con Netflix. Meglio. Pure. Bravo Alessandro, bravo. Perché Netflix oggi finanzia porci e cani, cioè. È il momento sto giusto. Vedendo delle serie, Gabriele. Non mettiamo il dito su questo tasto. Sto vedendo le serie che dopo mezza puntata. Allora, bam! Adesso si è fatto certo di dove andare. Ma posso dire che ho cominciato a vedere la serie che mi hai consigliato sugli zombie. Fighissima, che ho visto solo la prima puntata. È una stagione sola. Ah, ok. Ho visto solo la prima puntata. Devo dire, è molto figa. Molto figa. Ma dovevi vedere terza, seconda, terza, quarta. Ho cominciato oggi. Ho cominciato oggi. Come si chiama? Non mi ricordo più. Black. No, che Black? Come? Certo. No, che Black? È un'altra. Che Black. Ma era su Netflix? Sì. O era su Prime? Ma che Black? Black Summer. Black? Summer. Black Summer. Ma sei sicuro? Allora, quella che ho visto io nella prima puntata inizia che gli zombie, insomma, qualcuno non ne vediamo, però è appena iniziata l'epidemia. Poco poco, c'è pochissima epidemia. E ci sono sei persone diverse, noi seguiamo sei persone diverse, sì, con sì, tutti i casini, sì, che gli, sì, accadono. Sì, il primo, sì, sono la famiglia di tre, che la bambina sale sulla camionetta e fanno il controllo al padre, lui dice no, io non sono stato, sì, morto. Esatto, è quello. Black Summer. È quello. Black Summer, vedi, me lo scrivono anche, Black Summer. Ti è piaciuto, meno male. Solo il primo episodio, poi vediamo. Invece tu stai vedendo Gomorra 4, che è quella che io ti ho consigliato. Sto aspettando, lo sai come funziona. Ah, è vero, tu devi sparare tutte. Io ho visto le prime due, un pezzetto delle altre, proprio i pezzettini. Beh, la seconda è figa proprio. Solo un pezzettino, però devo aspetto che finisce tutta e poi mi prendo un weekend e boom, compro l'ira di Dio di roba, schifezze da mangiare, impianto, capito, gas a palla e me lo vedo. Bello, bello, bello. Allora, qui scrivono: posso testimoniare? Sono 10 anni che dà idee geniali. No, aspetta. È Gabriele che non vuole fare miliardi perché già li ha, scrive Giorgio. Allora, posso dire una cosa? Solo i poveri hanno questo attaccamento al denaro. Questa è la cosa. Questa è la verità. Ma io lo dico per te, c'hai famiglia. Dico, ti faccio fare un po' di quattrini. Ma io sono ricco. No, lo so, lo so, però un po' più, perché adesso c'è una bocca da sfamare, Gabriele. Cioè, sfamare ai miei livelli, cioè non è, io sono abituato a certi livelli, non è che posso sfamarla con poco, devo sfamarla a altri livelli. Cose già all'elicottero, la figlia, figuriamoci. Alla carrozzina da Formula 1, d'oro massiccio, d'oro massiccio, l'autista che la porta all'asilo. Va bene, grazie Gabri, prego. Ci vediamo sabato prossimo? Venerdì, cioè venerdì prossimo? Confermo. Ah, aspetta, no, aspetta, mi sa che io venerdì prossimo. Ah, no, manco io, no, non ci sono. No, non ci siamo nessuni. C'è un ponte. Come c'è? E io faccio il ponte. Aspetta. È 27. No, 26. 26. Ci, no, io, sì, ci sono. Io faccio ponte. 26. Vabbè. Faremo a meno di te, chiameremo un altro critico. Telefono. Non sarà la stessa cosa. Lo so. Ciao. Ciao. Ciao.